Il punto di Stefano Folli. Il primo atto della campagna elettorale di Monti si è già svolto. Lo hanno messo in scena non solo le borse e gli spread, ma soprattutto i capi dei governi dell'Europa. Tutti, a cominciare da Hollande, hanno chiesto al premier italiano di continuare nella sua opera. E benché Berlusconi si reputi offeso per le reazioni internazionali al suo ritorno, questa è la realtà. Nell'Europa interdipendente di oggi, benché non ancora integrata sul piano politico, quello che accade a Roma interessa tutte le altre capitali. Un disastro in Italia travolge le economie degli altri. E viceversa, un'Italia stabile e pienamente europea è una garanzia per l'intera Unione. Monti è insomma il candidato dell'Europa per il futuro governo italiano e questo è un punto di cui i suoi avversari dovranno tener conto. Non parliamo di Berlusconi che si è messo ai margini da solo rappresentando oggi l'anti-Europa, ma anche Bersani dovrà fare attenzione a come si muove e infatti il segretario del PD vorrebbe tanto che Monti se ne stesse alla Bocconi durante la campagna elettorale, ma non sarà così.